24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Vogliamo elettori, il bagno alla turca! Non lasciamo a nessuno il diritto di veto. Conta molto più il voto degli italiani che il veto di qualche politico che vuole bloccare le riforme. Siccome contano più i voti dei veti, vi garantisco che andiamo avanti a testa alta. Contano i voti! E dunque il PD che ha preso il 48-41%, mica i veti. Allora, fa bene Matteo Renzi, cari italiani, oppure, come già scrive anche il Corriere della Sera, è già convinto, sereno, tranquillo, pacato, che gli butteranno addosso la croce del dittatore, dello stalinista, dell'epuratore? Che ne pensate alle 6:33 minuti? Buongiorno! Ma voi, io lo so, dice, ma chi se ne frega, ma sono iniziati i mondiali, il Brasile ha vinto, domani c'è l'Italia, sta arrivando la pioggia. Queste sono le preoccupazioni che avete e vi capisco. Alle 6:34 minuti saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè sempre lì in regia. Il nostro Parlamento può aprire, si apre, anzi, si apre il Parlamento e si chiude la 58esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 58esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Brutto cretino d'un Milan. Oh, appunto, mi sembrava che mancasse qualcosa. Come chiosa. E, tra l'altro, ieri io avevo pronosticato 1-1 Brasile-Croazia nel mio in Twittau 14, questo gioco che faccio con Cruciani, con Pardo, con altri pazzi scatenati. Che miseria, quando ho visto il gol della Croazia ho detto dai, è 0-1 adesso, poi il pareggio di Neymar, dai 1-1, tutto così. Poi mi hanno detto, sono andato a dormire, mi hanno detto che c'è stato un rigore vergognoso per il Brasile. Saluto Silvia Brasca che sa tutto di calcio, avrà visto la partita. Silvia, Silvietta, buongiorno. Sì. È ciao, buongiorno. Vergognoso questo rigore, dillo, io non l'ho visto. Sì. Ma sì, che vergogna, ma mi hanno rubato il pronostico, sicuramente non avrebbero mai segnato se non... No, sono forti. Sono per rigore, sì, poi dopo se girano, insomma. Vabbè, allora lo chiedo a Paolo Del Debbio. Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno. E c'era rigore per il Brasile? No, ladri di rigori. Mamma mia, ragazzi, hanno rubato, hanno rubato già la prima partita. No, vabbè, però il Brasile è sempre un piacere vedere la tecnica dei giocatori brasiliani. Poi vabbè. Ma voi volevate parlare di Renzi, forse, Del Debbio? No, ma mi hai invitato tu, non so di che vuoi parlare. Vabbè, in teoria bisognerebbe io parlare. Potevo anche continuare a dormire, diciamo. Ecco la prima stoccata, 1-0 Del Debbio Milan, ecco, subito. Vabbè, ma poi dopo la Brasca ti dà un rigore magari. Brasca inventa un rigore, per favore, così almeno possiamo pareggiare. Allora, no, vi lo chiedo così, Del Debbio, fa bene Renzi a dire il PD non è un tram e non sarà un mineo qualsiasi a bloccare le riforme? Ma secondo me nel complesso sì, non vedo perché fa male. Cioè, ha vinto le primarie su un programma dove c'era ben di più di quel che sta portando a casa. Ha vinto le elezioni in quel modo lì, dice la linea del partito è quella, e chi ci vuole stare ci sta e chi non ci vuole stare non ci sta. Mi sembra abbastanza... Sì, non vedo... Un po' di disciplina di partito male non fa. Un po' di disciplina di partito non fa male. Vabbè, disciplina. Ma questa cosa dittatore... Ma che dittatore? Ma che dittatore? Perché ha tirato fuori Mineo. Cioè, Mineo dittatori, chi? Sì. No. I dittatori, insomma, si occupavano di roba più importante. Sentite il ministro Boschi, sentite la scelta su Mineo. Perché? Perché? Perché? Perché dice? Però non è diffidenza. Ma che c'entra? Cioè, voglio dire, non è da questione, dice, ma ci deve essere dialogo all'interno del partito, no? Perché questo è il tema, perché la democrazia... Sì, ho capito, il dialogo va bene. Però poi bisogna decidere. I partiti fanno anche delle scelte di fondo, certo. Abituati a partiti che non decidono mai nulla, perché i leader, presi dalla concertazione interna, non arrivano mai a nulla. Forse è questo, cioè forse hanno trovato uno che decide. Comunque, il ministro Boschi, ma secondo me, anche secondo me fa bene, ma diciamolo, Mineo, che tra l'altro avevamo l'altro ieri qui al microfono, al mattino diceva, è mia sostituzione. Ma no, ma non è possibile, ma è un gesto che nessuno capirebbe. Pam! Non è arrivato neanche a sera. Vabbè, sentiamo il ministro Boschi. Sono accuse infondate, è una scelta che ovviamente ha assunto il gruppo dei senatori del Partito Democratico ed è una scelta assunta democraticamente all'interno del gruppo. Quando i membri non rappresentano più la linea del partito possano essere sostituiti se i gruppi decidono così. Tanto più che il senatore Mineo a sua volta era lì in sostituzione, non era nemmeno membro della prima commissione. Capito, signor Rasi. Quella ha detto bene. Ma poi l'ha detto bene. Senza ma poi no, io questa me la immagino. Questa parlata toscana. Hai ragione, dai, Silvia, siamo un po' in fase, come dire, di ammirazione per... Sì, è un po'. Siamo... Capito, un po' sessista questo, perché se l'avesse detto qualcun altro si andava oltre. Dai, no, sessista, no, sessista. Se lo diceva Zanda era uguale, non me ne frega. Stavamo qua a commentare. Vabbè, allora, sì, per Silvia Brasi. A me piace. Silvia, allora che dire, è un dittatore Renzi se sostituisce? Ma no, ma fa bene, cosa facciamo? Cioè, se si cambia verso si cambia, non è che ci si possa fermare per aprire il dibattito interno. Fa bene, quel numero 40,8 che campeggerà lì al comitato. Oh, con quello si tace. Si tace, oh, ragazzi, però possiamo dire la nostra almeno qui, sì. No, sì, certo che si può, però appunto ripeto, apriamo il dibattito interno, no, questo no. Però insomma quei vecchi bei dibattiti all'interno della sinistra, del Debbio, non mancavano un po'. Sì, che poi non portavano a bel nulla. Portavano a perdere le elezioni. Ma tu pensi ai dibattiti in Forza Italia in questi anni, no? Sì, o nel PDL quando facevano le finanziarie, che a un certo punto Alemanno si era inventato che lui era la destra sociale, poi l'altro invece era il liberista, e quell'altro era il socialista, e quell'altro era il democristiano di destra, il Doroteo, che poi si arrivava che sembrava i tempi di Cirino Pomicino, entrava la finanziaria che due e usciva peso totale 4, perché nelle commissioni lui ci infilava il che voleva. Poi dopo vanno alla rovina i partiti, non pigliano più voti, è chiaro. Non è, voglio dire, per essere chiaro con chi ci ascolta, non è che è una incondizionata appoggio alla linea politica di Renzi, è un incondizionato appoggio al fatto che un partito decide una linea e segue quella. Sì, è sbagliato o giusto che sia, ma siccome ha vinto e la democrazia è così. No, ma è chiaro, anch'io sono dell'idea che chi dice dittatore esagera, adesso si può fare tutte le critiche del mondo, ma insomma non è che se ha vinto, anche perché agita se no lo spettro delle elezioni, continua a dirlo Silvia ancora oggi sulla stampa, o riforme oppure andiamo a votare. Tanto è forte di quello che gli italiani hanno dato come mandato, sa probabilmente che avrebbe una vittoria elettorale in tasca, e allora Silvia dice, allora andiamo a votare. Se... Sì, ma con quale legge? Come andiamo a la legge, ma porca miseria, ci si è scordati questo particolare, che siamo alla 58esima settimana decisiva. Vabbè, ma confidiamo nella prossima. Intanto io volevo invece farvi sentire un uomo, un mito. È tornato sulla sua poltrona. No. Sulla sua poltrona. Il sindaco ha patteggiato e è tornato. Il sindaco Orsoni. Evviva! Il sindaco Orsoni a Firenze, a Venezia. Sì, vabbè, ci manca che vanno a Firenze. A Venezia. Fanno il Mose sull'Arno. Ha patteggiato 4 mesi e ha detto, ma io dico, a parte ha parlato parlato malissimo del PD, di Renzi, ha detto PD farisaico, hanno fatto le anime belle fingendo di non conoscermi e parlo del vertice di Matteo Renzi. Poi la domanda decisiva, si dimette? No, ho fatto un gravissimo errore, gravissimo, accettare la nomina, la candidatura. E si dimette? No. Ma come? Ma come? Questo fa la fine di Mineo. Fa la fine di Mineo. Sentite Orsoni, Orsoni. Ci saranno delle conseguenze, anche gravi, da parte di chi mi ha assimilato ad un gruppo di malfattori che ha maneggiato in questa città in modo indegno, e credo che su questo ci saranno dei pesanti e lunghi strascichi anche nei confronti dei media che non hanno voluto distinguere le posizioni. Insomma, fa la voce grossa del Debbio. No, la voce mi sembra non tanto grossa. No, vabbè. Però quello. Ha patteggiato per sé o per quel gruppo di malfattori? Lui? No, ha patteggiato dicendo, perché io sono innocente, ma ho dovuto versare questa piccola goccia di sangue sulla mia carriera. Rimane in galera. Vabbè. No. Cara Silvia, un capisci? Un po' mona, cioè nel senso... No. Adesso. No, perché l'anima bella l'ha fatta anche lui, perché se ti arrivano più o meno, non sai, 560.000 euro, sì. Ti fai una domanda anche bene da dove arrivano quei soldi, e mi hanno spinto e venivano lì a convincermi, insomma, lui è anche un avvocato, non mi sembrava un francescano preso dalla società civile, ci sono quei candidi, non lo so, un avvocato col palazzo sul Canal Grande pensava, di non fare la campagna elettorale, di non tirare fuori una lira, se gli arriva, o se gli chiede a un'azienda, ma insomma, Venezia è anche un buco, li conosce, questi due domande si li doveva fare. Sì. Ora uno che deve fare il sindaco, che non si chiede poi dopo questi soldi come arrivino, perché come Dice ci sono i verbali almeno sul Corriere della Sera dell'interrogatorio, sì, sono venuti i tre reggenti benissimo. Del PD locale a dirmi, oh guarda che Brunetta ha i soldi, quindi anche tu devi recuperare, e questo almeno nel verbale di Orsoni, e lui ingenuamente, non lo so, ingenuamente, dai. No. Io questa ingenuità, da uno che va a fare il sindaco della città più complicata del mondo, che è Venezia, scusami. La frase migliore in questo interrogatorio è, carissimi Silvia Brasca e Paolo Del Debbio, caro Paolo, sai qual è? Mazzacurati le ha mai consegnato brevi manu del denaro? Mai, risponde lui, e aggiunge, può anche essere che mi abbia lasciato dei plichi da qualche parte e che io li abbia mollati lì. Ma porca miseria, io ora te lo dico, io ve lo dico, sì, ora mi metto. È un altro senza puta. No. Io oggi passo tutta la giornata a cercare a i plichi. Cercare in casa il plichi. No, certo. Perché se la Brasca, te lo giuro, ascolta, me l'ha lasciato senza dirmi nulla. Io domattina non sei in onda, io lunedì mattina torno e faccio un casino. E lo trovo, no, perché ci sono, infatti, cari veneziani, ci sono dei plichi forse lasciati lì, così almeno. Da ora io lo cerco, no. E se provo vedrai. Può fare una bella caccia al tesoro per Venezia, magari ci sono dei plichi che mi hanno lasciato lì e non lo so, o i plichi a insaputa, effettivamente. Andiamo a sentire il traffico, perché poi c'è l'altro filone, la Guardia di Finanza, per stare allegri, anche lì sono spuntate barche e soprattutto donne. 24 mattino. Ciao Mila, ma Peter Nash Café, quanto sta Peter Nash Café? Io non mi sveglio senza di lui al mattino, che sta in vacanza. Non vorrei che ora che la magistratura sta scoprendo tutta questa corruzione, c'è chi vuole fermarla approvando leggi sulla responsabilità dei giudici. Mi auguro che la nostra nazionale di calcio venga a casa al più presto, perché nel caso in cui giustamente andasse avanti, e se per carità dovesse anche vincere i mondiali, diventerebbe vaselina per metterla nel culo agli italiani. Questi già cagano addosso col sole. Leviamo pure le luci la sera, se cagano addosso il doppio, il doppio di scorte, il doppio dei poliziotti che li devono proteggere. I risparmi di Maria Cazzetta sono questi. Eccolo, il grande Renzi, il dittatore dei dittatori. E se in commissione c'è una persona che esprime la sua opinione, viene mandato via. Guardiamo il caso di Mineo, è un esempio di dittatura. Popolo di pallonari, stupidi, scemi, i supermercati pieni di pubblicità per il pallone, se vince di qua, se vince di là, risparmi di qua, risparmi di là, sarai rimborsato, pieno di manifestine, tutti i supermercati, balordi per vendere quelle merde che hanno da vendere sempre di più. Inizia finalmente il mondiale. Tutti quanti davanti alla televisione, con frittatona e birra doppio rutto, a seguire l'Italietta. Periodo favorevolissimo all'introduzione di nuove tasse e leggi vergogna! Vabbè, Paolo Del Debbio, la vedono un po' così. Nescafè, il nostro Peter Nescafè. Povero Nescafè. Mitico, mitico. E la vedono così gli italiani, il mondiale, un po' arrabbiati. Ma insomma gli italiani, quelli che hanno telefonato. Ma sì, infatti, gli italiani, esatto, questi che hanno telefonato. Allora, non ti esaltare. No, per carità, per carità. Che dire, questo è. Allora, tu Silvia l'hai vista, come invece li vedrai i mondiali. Ma sì, ma giustamente. Sì. Ma diciamolo forte, senza vergognarsi. Non conta nient'altro, io non li vedo solo per il fuso orario. Ti ho pensato. Mi hai pensato. Primo tempo ho detto, vabbè, finirà 1-1 e vincerò a Twittau 14 e poi dopo. Devo prenderle alle 4 del pomeriggio e poi ti alzi a mezzanotte. Si potrebbe fare, dovendo lavorare, c'ho questa roba. Ti prendi due o tre Nescafè. Si potrebbe provare. Vabbè, comunque il comandante Mendella, capitano della Guardia di Finanza, telefona a un amico e gli dice: dai, vieni qui, su, che c'è questa figa qui che ti sta aspettando. Ma no, non ce la faccio. E questo: ma una figura di merda, ma ti sta aspettando, su, ma non ce la faccio, dai. Poi è arrivata anche Katia, che deve essere la moglie. Ma no, ma vieni, dai, ma ti ho detto che ti sta aspettando qui apposta. E vabbè, c'è anche questo. È la famosa guardia di ficanza. ormai è così, è il clima mondiale. Ci vorrebbe, Silvia, una samba a questo punto per vabbè. E anche la guardia di finanza. No, ma per carità, il comandante, dice il comandante in un'intervista a Repubblica: siamo, il corpo è assolutamente pulito, sono poche mele marce, barabà, barabà, barabà. Per carità, ma Silvia, dobbiamo pensare così, perché sennò cosa facciamo? Mandiamo tutto a catafascio? No, io devo dire che ultimamente, davvero negli ultimi due anni, ogni giorno, noi lo sappiamo, anche tante cose, tante notizie che non, insomma, che non diamo, c'è un riscontro capillare del lavoro della Guardia di Finanza. E certo che quello che fa impressione, se uno può pensare al mare, adesso non so i gradi, al maresciallo che si fa corrompere per un paio di occhiali da sole, ci può stare una roba del genere, ma quando ci sono i vertici. Sì, però devo dire, le indagini le hanno fatte quelli stessi della Guardia di Finanza. Questo dovrebbe deporre del fatto che, insomma, sono sani. Questo Paolo Del Debbio, dice il comandante. Sì, no? Cioè, sì, li abbiamo beccati noi, non è che sono stati beccati da qualcun altro. Insomma, che nella Guardia di Finanza ci sia stato sempre qualcuno che ha beccato la finanza, nel senso di quattrini, e nelle operazioni che faceva o per coprire, poi in qualche caso negli anni c'è sempre stato, non è una novità. C'era anche quando la Guardia di Finanza chiamava il Dazio, non so se vi ricordate, se siete ragazzi, ma comunque c'è stato un periodo che i comuni c'erano le guardie del Dazio, lo facevano anche loro, no? Di andare nei posti, prendere i soldi per marchiare meno prosciutti di quelli che c'erano da marchiare, voglio dire. È da quei tempi là, cioè siamo negli anni 50, che però io francamente dire che appunto, come diceva Silvia, cioè che dire che tutto, insomma, di robe che di ansia, ecco, diciamo così, durante il giorno le vedi anche te, di quelli che hanno beccato i contraffattori, di quelli che hanno, cioè, ne vediamo, insomma, di sta gente qui. Poi, che ci sia uno che, ripeto, si occupa di altre questioni e dice vieni qua che c'è una che ti aspetta, o aveva scoperto una partita variata di borse oppure verrebbe anche da dire, però variato, diceva, sì certo, però voglio dire, verrebbe da dire anche che di queste intercettazioni a volte se ne può fare anche a meno, no? Adesso tutti sapranno, compresa la compagna, la moglie di questo qui, che c'era uno che gli offriva, insomma non è neanche Ma... vedi anche che tipo era, perché non è detto che fosse un reato, cioè non appunto cioè, dice che c'è una che ti aspetta, voglio dire, che c'è una mia amica qui piace, amica non l'ha chiamata amica, vabbè, c'è una figa qui che ti aspetta, nel senso è una bella donna, molto Alessandro. Si dice, Del Debbio lo dice spesso, no, vedi qui che c'è, no. Ma sono le 6:30. Dai, su, la guardia di finanza, ecco. Allora, poi io non so mica della guardia di finanza. Ecco, appunto. Va bene, fate il pronostico per l'Italia, dai, subito, che così portate sfiga. Silvia, cosa finisce Italia-Inghilterra domani? Italia-Inghilterra 1-2. Ah, vabbè, vince l'Inghilterra. Bene, Del Debbio? Sì. 2-1. Per l'Italia. Va bene. Beh, no, per chi? No, perché lei ha detto 1-2. 2-1. È la par condicio, bellezza. Allora, sì, grazie, alla prossima. 1-2-3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari italiani, cari ascoltatori, alle 7:18 minuti. Forza, che fate le notti in bianco a vedere i mondiali e poi fate i debosciati al mattino. Bisogna andare a produrre in un giorno in cui finisce la 58esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 58esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E voi lì a guardare Neymar, il Brasile, i rigori inventati, eh? E poi al mattino, concludetela voi la frase, eh? Allora, oggi parleremo di quello che sta succedendo nel Partito Democratico. Contano i voti e non i veti, dice Matteo Renzi. Avremo il senatore Casson, uno dei 14 autosospesi dopo il caso Mineo. Ma avremo anche il sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin, nostro ospite. Colui che dice: sogno i trasporti pubblici gratis. È davvero un sogno oppure no? Avremo con noi il sindaco alle 8:45. State con noi perché parliamo di politica, di tante cose, anche col vostro contributo. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 13 giugno, venerdì 13. Vabbè, allora, ma sapete che essere superstiziosi porta sfiga e quindi mi raccomando, non credete a queste cose stupide. Allora, il Sole 24 Ore apre così: Tasi senza detrazioni in un comune su due. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre le tensioni nel PD sono, per il Corriere della Sera, tensioni nel PD stretta di Renzi. Repubblica: Renzi attacca i ribelli PD, 5 Stelle scelgono Farage, la base contro Grillo. Per il Fatto Quotidiano: Renzi, dissidenti chi? Orsoni, Renzi chi? Mette insieme due vicende. Libero: sul PD mazzette e mazzate. Il Giornale: ammutinamento nel PD. Mentre La Stampa: Orsoni patteggia e resta sindaco. Questo è il titolo di prima pagina. Sulla vicenda del PD invece è molto duro il titolo del Manifesto: l'editto cinese, e c'è la foto di Matteo Renzi. Mentre l'Unità mette come titolo: scontro nel PD, Renzi no veti. Tra l'altro l'Unità, devo dire, in prima pagina una notizia che riguarda proprio il futuro della testata, la notizia dell'editore, insomma, dell'Unità messo in liquidazione. Dunque c'è sicuramente qualche nube sul futuro dell'unità. Il Messaggero invece si concentra sulla riforma per la pubblica amministrazione che oggi approda in Consiglio dei Ministri. Statali in pensione si cambia, questo è il titolo di prima pagina. Ma vediamo subito qualche articolo, a cominciare da quello che vi permetterà di tenere le mani ben strette sul volante, assolutamente, se siete alla guida. E caffè bollenti da appoggiare, perché scoprirete, se leggerete il giornale a pagina 13, che alla Camera ci sono 104 dipendenti che guadagnano più di Re Giorgio. Questo è il titolo, cioè più di Giorgio Napolitano. Qua 104 dipendenti della Camera guadagnano più di 238.000 euro lordi l'anno, il tetto imposto dal governo. Un numero esorbitante, scrive Fabrizio De Feo, Eldorado Camera. 11 documentaristi tecnici ragionieri, un interprete traduttore, 89 consiglieri parlamentari. Costoro, insieme a due vice segretari generali e al segretario generale che è al vertice della piramide dorata, sono i fortunati vincitori del concorso per l'ingresso a Montecitorio, che possono godere di inesorabili progressioni della loro busta paga, arrivano a guadagnare appunto più del Presidente della Repubblica. Sono, ripeto, documentaristi, tecnici, ragionieri, ma anche un traduttore e soprattutto i consiglieri parlamentari. 104 retribuzioni sopra il tetto imposto da Renzi, 238.000 euro. Ma sapete che c'è l'autonomia delle Camere e dunque, se non decidono di adeguarsi, l'autonomia rimane e gli stipendi sopra i 238.000 euro che valgono per la pubblica amministrazione non valgono invece per Camera e Senato. Ma voglio iniziare la lunga pagina politica, cominciare dal PD, non tanto dai 14 che si sono autoesclusi quanto da vicenda del sindaco di Venezia Orsoni. Il sindaco di Venezia ieri ha patteggiato 4 mesi per finanziamento illecito ai partiti ed è tornato in 4-4-8 liberato dagli arresti domiciliari a fare il sindaco. Ha fatto una conferenza stampa che diventa un'intervista che trovate più o meno su tutti i giornali. Non mi dimetto, questo è il primo concetto espresso da Orsoni. Sono deluso dal Partito Democratico, da Matteo Renzi un comportamento farisaico. Leggo per esempio da Repubblica, pagina 13. Allora, sindaco, si dimette o no? Al momento no, non ci sono le condizioni. Il comportamento inaccettabile è stato del PD, il modo superficiale e farisaico con cui hanno trattato la mia vicenda, in particolare mi riferisco al vertice Matteo Renzi. Sui giornali ho visto certe dichiarazioni, vabbè, se ne occuperanno i miei avvocati. E poi loro dicono che non mi conoscevano, che non ero del PD, si sono cavati fuori come delle anime belle. Renzi poi lo conosco da quando faceva il sindaco a Firenze, devo dire che ho sempre apprezzato il suo modo di far politica. Per un periodo ho pure pensato di prendermi la tessera, ma dopo come mi hanno trattato non credo che lo farò. Qualcuno è stato troppo frettoloso nel giudicarmi, nell'accomunarmi a chi ha rubato o è stato corrotto. Ma sindaco, lei ha avuto una detenzione dorata nel suo palazzo di 4 piani. Effettivamente ho una casa confortevole, forse l'unica a Venezia affacciata su 3 lati del Canal Grande, e ho dell'ottima musica. Così il sindaco Orsoni. A cosa ha pensato in questi 8 giorni, se dovessi dire veramente quello a cui pensato? Ma a cosa si riferisce? A qualcuno che è stato frettoloso? Ma chi? Ad Alessandra Moretti, per esempio? La Moretti è stata bersaniana, lettiana, renziana. Non credo che la coerenza sia esattamente il suo forte. Ma lei non ha nulla da rimproverarsi, chiede Fabio Tonacci su Repubblica. No, sono innocente. E perché ha patteggiato? È stata una goccia di sangue che ho dovuto versare, poco più di un incidente. L'unico grande errore che ho fatto, aggiunge Orsoni, è stato accettare la candidatura a sindaco. Verrebbe da dire allora veramente perché uno si dimette, come se fosse l'essere sindaco una condanna adesso. E ancora su Giovanni Mazzacurati, che sostiene in un interrogatorio di averle portato denaro, 400-500 mila euro a casa sua, risponde il sindaco di Venezia: è un millantatore, non mi ha mai dato un euro, l'ho incontrato più volte, è vero, e fu lui a propormi di sostenere la mia campagna elettorale attraverso canali che ho sempre ritenuto leciti, ero convinto che tutto fosse a posto. Questa è la difesa di Orsoni nel giorno in cui il Corriere della Sera pubblica i verbali del suo interrogatorio. Il verbale del primo cittadino Giusy Fasano, Andrea Pasqualetto, lo pubblica a pagina 9. Mi hanno usato, ero la Madonna Pellegrina. Così il sindaco Orsoni nell'interrogatorio dice: è stato il PD locale. E fa i nomi del segretario Mognato, all'epoca segretario provinciale, e poi Zoggia, allora presidente della provincia, oggi deputato, e ancora Marchese, che è stato arrestato, che mi venivano a dire: guarda che il tuo concorrente, cioè Renato Brunetta, è in vantaggio, si dice che ha 1 milione di euro, quindi tu fai la figura del pezzente. E poi insistevano perché fossi io stesso a finanziare, mi dicevano: datti da fare per far arrivare risorse adeguate, se no rischiamo di andare male. Io mi sono adattato, questo non lo nego, e ho insistito con Mazzacurati. Però, ripeto, non mi ha mai consegnato del denaro. Poi aggiunge questa frase che è epocale nel verbale: mai mi ha dato del denaro. Può anche essere che mi abbia lasciato dei plichi da qualche parte e che io li abbia mollati lì. Questa è la frase di Orsoni nel verbale secondo il Corriere, una versione che convince i PM, i quali nel dare parere favorevole alla richiesta di patteggiamento di 4 mesi scrivono: tra persone di mondo questi affari si regolano con comportamenti concludenti e discreti, senza formule sacramentali e atteggiamenti grossolani. È dunque plausibile che la consegna a domicilio sia stata la semplice collocazione di una busta in una stanza qualunque, con vereconda indifferenza e reciproche cavalleresche cortesie. Escludono dunque i magistrati di una frusciante mazzetta, ritengono poco plausibile che un candidato del prestigio di Orsoni potesse raccattare fondi con iniziative personali diffuse e petulanti. Sono sempre parole del magistrato, ma più un plico lasciato lì. Vengo in casa tua e, secondo i magistrati, e sto leggendo dal verbale per cui hanno creduto a questa versione di Orsoni, un plico lasciato lì, non una frusciante mazzetta consegnata in mano. Lei non ha detto al partito: andateci voi a chiedere i soldi a Mazzacurati, chiedono a un certo punto i magistrati, e Orsoni replica: è vero, questa è stata una mia debolezza, non mi sono opposto, ma in tutto questo sono stato usato, mi pareva di essere la Madonna Pellegrina. Così il verbale di Giorgio Orsoni, che torna sindaco di Venezia. Può essere anche che Mazzacurati mi abbia lasciato dei plichi da qualche parte e io li abbia mollati lì. Alessandro Milan, pisellino dell'informazione. Vabbè, il personaggio di Braccio di Ferro, sì, me lo ricordo anch'io, pisellino. Allora, la vicenda Orsoni continua sui giornali. Perché questo è quello che ha detto il sindaco di Venezia dopo aver patteggiato 4 mesi di pena, ma secondo un retroscena di tutti i giornali, soprattutto Repubblica, Giovanna Casadio ne scrive a pagina 12, in realtà il PD di Roma, e quindi Renzi e il PD centrale, vorrebbe cacciarlo. Orsoni torna libero, ma il PD lo scarica: se ne deve andare. Da Roma la direttiva è questa: Orsoni se ne deve andare, non può più restare a guidare l'amministrazione comunale. Noi non lo appoggeremo. Questa è la decisione che trapela dalla sede del Nazareno dei Democratici. È iniziato il conto alla rovescia per la sfiducia. Secondo Repubblica, da Roma c'è pressing ora sui consiglieri comunali di Venezia affinché li vengano convinti a dimettersi e dunque a far decadere la giunta e far decadere il sindaco. A proposito dei nomi citati da Orsoni, ce n'è uno che è Davide Zoggia, sul quale si concentra il Corriere della Sera, ma soprattutto Libero, che fa una pagina con richiamo in prima pagina con un articolo firmato Franco Bechis. Viene definito l'idrovora zoggia. Quando uno dei professionisti della DLA Piper, a cui il nuovo PD di Renzi aveva chiesto una due diligence sui conti del partito, si è trovato davanti alla cartellina delle spese per la segreteria, è sbottato. Ma questo è un idrovora. L'uomo idrovora che funzionava meglio del Mose corrisponde per Libero al nome di Davide Zoggia, ex presidente della provincia di Venezia, ex responsabile degli enti locali all'interno della segreteria di Bersani. L'uomo idrovora, come è stato ribattezzato, è riuscito a risucchiare nel 2012 da solo circa un terzo delle spese della segreteria del PD. Le spese totali della segreteria ammontavano a 670.000 euro e solo Zoggia ha preso 180.000 euro. L'anno dopo il costo complessivo della segreteria è sceso a 170.000 euro perché i costi di molti componenti sono passati a carico di Camera e Senato. Insomma, definito così, i conti del PD soffrono per l'idrovora Zoggia, su un terzo delle spese della segreteria. Ma il Partito Democratico sta vivendo anche un momento di tensione interna dopo che 14 senatori si sono autosospesi dopo che Corradino Mineo è stato tolto dalla Commissione Affari Costituzionali, sostituito. Allora, 14 autosospesi, uno di questi è il senatore Casson, che tra l'altro è anche di Venezia, e quindi con lui faremo due chiacchiere alle 8:15. Questa fronda porta Matteo Renzi ad andare avanti dritto, senza tentennamenti, come raccontano tutti i giornali, nonostante il manifesto titoli l'editto cinese, no? Che ricorda anche un po' l'editto bulgaro, tanto che c'è un altro termine che in qualche modo fa paragonare il manifesto a Berlusconi, sempre a pagina 2 il manifesto scrive: si sente unto dal popolo, che riecheggia quel unto dal signore che si diceva di Silvio Berlusconi. Ebbene, però, secondo il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, a pagina 3, Renzi fa pesare il 40,8% alle urne, basta, si decide a maggioranza, io epuratore stalinista, dice Renzi ai suoi, ma non diciamo cavolate, sulla riforma del Senato ci siamo confrontati in mille sedi, abbiamo fatto riunioni di direzione, assemblee di gruppo, un seminario, martedì al Senato ci sarà un'altra assemblea ancora, di che diavolo parlano? E poi di Mineo dice così, è incredibile, allucinante che Corradino Mineo parli di epurazione, il PD non è un taxi che si prende per farsi eleggere, andare in TV, fare interviste, non ho preso i voti che ho preso per lasciare il futuro del paese nelle mani di Mineo. E ancora, sa già Matteo Renzi che gli butteranno addosso la croce del dittatore, già lo chiamano così, chi apertamente, chi solo dietro la garanzia dell'anonimato. C'è chi ricorda i suoi trascorsi fiorentini quando epurava gli eretici o comunque li metteva fuori gioco. Io non criminalizzo il dissenso, dice Renzi, ma abbiamo deciso a maggioranza e sono decenni che ci riempiamo la bocca con la parola riforme senza approdare a nulla. Io non mi faccio riportare indietro nell'immobilismo della palude solo per dei veti che servono a un gioco di posizionamenti tattici interni al partito. Insomma, Renzi tira avanti, questa è la retroscena del Corriere della Sera, ma anche il vice segretario Guerini, intervistato dal Messaggero, parla di esagerazioni di queste persone che si sono autosospese, esagerazioni che coprono la realtà, si sta in commissione per rappresentare il gruppo da cui si è designati. Il regolamento del Senato dice che ciascun gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire i propri rappresentanti in commissione. Dico solo che se il dissenso non rientrasse sarebbe davvero il tradimento della speranza che ci hanno affidato gli italiani. Non capirei scelte del genere. Così Lorenzo Guerini. Comunque Renzi viene dato anche dal Messaggero per furioso, non accetto veti né lascio il paese a questi qua. Li definisce così. Per La Stampa addirittura minaccia nuovamente il voto. Renzi rilancia riforme o meglio tornare al voto. Questa è la retroscena di Fabio Martini, un esponente del governo della cerchia renziana. Ieri sera la raccontava così: Matteo ha deciso, si tira dritto sulle riforme, intende dare corso alla moral suasion del capo dello Stato. Ma se le resistenze alle riforme dovessero intensificarsi, la strada elettorale potrebbe rivelarsi obbligatoria. E tutti guardano allora martedì, dove ci sarà quello che viene definito sul Corriere della Sera. Io sorrido, non posso che non sorridere, il vertice decisivo tra il Premier e Berlusconi. Paola Di Caro racconta a pagina 5 del Corriere: la speranza è che martedì si chiuda magari con un incontro tra Berlusconi e Renzi, un faccia a faccia che tanti danno per certo ma che nessuno ha ancora fissato. E se ci sarà, dovrà essere chiarificatore. È difficile che ci si arrivi senza una preventiva intesa di massima. Insomma, deve essere un incontro decisivo, come titola il Corriere. Ma in questo momento di politica molto confusa e anche di inchieste, c'è anche un'inchiesta che riguarda la Guardia di Finanza, che però affronteremo tra poco. Prima voglio salutare Mauro Meazza, l'uomo decisivo per il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono il 58esimo uomo decisivo, esatto, come la settimana. Esatto, più o meno sì. Sì, vabbè, mi metto in coda, insomma. No, ci sono ovviamente persone più decisive di me, come Alessandro, decisivo per Radio 24. Sì, certo. Senti, stai studiando la TASI? C'è questo incubo della TASI. Vabbè, ma non me la è possibile. Me la sognerò la TASI. Come fatto abbiamo, la TASI? Ti abbiamo messo due pagine anche oggi. Per spiegare due cose: primo, che i comuni si sono un po' scordati che bisognava mettere le detrazioni, e per semplicità, usare la parola semplicità con la TASI mi sembra un po' un paradosso, per semplicità non le hanno previste. E poi ti abbiamo fatto pure un riepilogo, a pagina 2 c'è un riepilogo dei vari casi della TASI, e così è anche un po' utile a fare un ripassino dell'ultimo momento. Guarda che il termine è lunedì, non è che poi c'è tutto sto tempo per rimediare. Posso vedere la partita domani dell'Italia o è meglio che la passi a studiare? Ma studi e poi vedi la partita. Va bene. Anche perché lo sai che oggi poi è un giorno anche importante, che stiamo aspettando la nascita di questa nuova tassa. È sempre bello quando nasce una nuova imposta, tassa. Ieri l'hai citata, me la sono già scordata io. Santa pace, è la IRI, si chiamerà IRI. Certo. Come dimenticare l'IRI? Imposta regionale sull'immatricolazione. Che cambia poi anche tutto il prelievo sul superbollo, il bollo, l'imposta provinciale di trascrizione, che invece ci lascia. Noi dispiaciuti, no, forse no, però insomma salutiamo l'uscita di scena di sostituiamo, ecco, mettiamola così in modo calcistico, sostituiamo l'IPT con l'IRI. Attenzione, l'Italia sostituisce. Senti, secondo te quante arance ci devono essere nell'aranciata? Dipende tipo 12%, 5%, 20%. È un problemino, vai a vedere poi nella parte di imprese e territori, perché noi avremmo deciso, noi italiani, che ci vuole almeno il 20%. Ma lo deciderà Bruxelles, immagino. Ma Bruxelles secondo me dava pure il 5%, stavamo a una legge che ne voleva il 12%. Questi qui che bevevano le arance annacquate, mamma mia. La quota dell'arancia nell'aranciata è un concetto variabile, caro Alessandro, non è un concetto stabilito. Invece hanno contato quanti hanno 1 milione di euro come asset, quante famiglie hanno 1 milione di euro. E in Italia, contati anche tu ed io, siamo 281.000, ma ottimo. Forse tu e io non. Allora 281.000 hai due, perché a noi forse non ci hanno contato. No, no, tu con i tuoi 2 euro. Io sono sopra i 10 milioni e quindi sono. Forse sei finito da un'altra parte. Senti, poi ti preannuncio, ma te la butto lì e poi ne parleremo nelle prossime mattine. Il 30 di giugno scatta questo obbligo di POS, di bancomat, per i professionisti, ma è proprio un obbligo, cioè bisognerebbe poter pagare con il bancomat, diciamo un po' ovunque, professionisti e fornitori di servizi. È proprio un obbligo? Chi lo sa? Lo scopriremo. È un dubbio amletico, agita il legislatore, tutte le categorie professionali e anche gli artigiani. Sul Sole 24 Ore di oggi, appunto, torniamo ancora su questa vicenda e poi se ne parlerà. E allora, Mauro, vuoi fare un pronostico? Vuoi fare un pronostico per domani? No, assolutamente no, grazie. Vabbè, insomma, mi sbilancio. No. Io dico 1-1 Italia-Inghilterra. Forza, Mauro, dai. No, io dico 12% per le arance nell'aranciata, almeno il 12%, va dai. Va bene. Lo dico? Lo dici. Buona domenica innanzitutto e traffico. Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. E allora, malandrina, cara ascoltatrice, la Guardia di Finanza è sotto attacco per questa inchiesta che ha portato anche il numero 2 della Finanza, Vito Bardi, a essere indagato, oltre che a essere messo agli arresti il comandante provinciale di Livorno. Posti barca, donne ai finanzieri, il sistema per aggiustare i controlli. Fiorenza Sarzanini racconta: ci sono imprenditori che collaborano in questa inchiesta a Napoli. A parlare sono soprattutto ufficiali e sottufficiali, uomini della Guardia di Finanza che accusano i loro superiori di aver preso dei tangenti. E tra l'altro in questa vicenda ci sono posti barca e anche storie di presunti appuntamenti con alcune escort. Ovviamente finisce subito nel trituratore mediatico questa intercettazione tra il comandante provinciale di Livorno Mendella e un amico avvocato Marco Campora, con l'avvocato che dice: Fabio, vieni qua, ti stiamo aspettando, c'è una ragazza pazzesca, questa figa qua ti sta aspettando. E lui dice: ma no, non ce la faccio. E l'avvocato: ma è una figura di merda, ti sta aspettando. E così via. Sì, ovviamente gli inquirenti cercano di capire cosa si tratta. Parla il comandante generale Saverio Capolupo, comandante della Guardia di Finanza, intervistato da Carlo Bonini su Repubblica. Dice: basta ladroni, toglieremo la divisa a chi ruba. Mi lasci fare una premessa, dice il comandante della Guardia di Finanza a pagina 15 di Repubblica. Non voglio sottrarmi alle risposte, ma gradirei che il principio della presunzione di innocenza valesse per tutti e sempre, dunque anche per gli ufficiali del corpo. Glielo dico con molta franchezza, non sono in grado di offrire una statistica sui casi di infedeltà nel corpo. So però che parliamo di una percentuale infinitesimale rispetto ai 60.000 uomini che ho il privilegio di comandare, a cui oggi dico grazie. So che il corpo è sano. So soprattutto che nella finanza non c'è spazio per i ladroni. Questo devono saperlo i cittadini, devono saperlo i miei uomini. Non c'è e non ci sarà spazio per i ladroni. Lo ribadisce due volte il comandante della Guardia di Finanza Capolupo, che fa questa intervista a Repubblica. E poi ovviamente un'intera pagina di dire: abbiamo un codice deontologico, ma se uno dei miei ufficiali viene assolto da un addebito, io devo poi impiegarlo con massioni adatte al suo grado. I controlli esistono, dobbiamo rispettare le procedure e la privacy dei nostri militari. E insomma, non ci sono, ci sono inchieste, tanta corruzione, che dire. C'è anche un altro esponente, un altro partito politico che sta vivendo momenti di tensione, il Movimento 5 Stelle, perché Grillo o il Movimento 5 Stelle ha scelto sulla rete l'alleanza con Farage, alla fine quello dello UKIP. Hanno votato per la verità in pochi, 23.000 i voti sì, ma 2 su 3 non hanno votato. C'è soprattutto qualche tensione sempre con Pizzarotti, sindaco di Parma, nuovi attacchi di Beppe Grillo. Oggi Pizzarotti si difende in un'intervista a Repubblica, intervistato da Valerio Varesi. Dice: non faccio dietrologie, ho sempre affrontato i problemi quando si sono presentati senza fasciarsi la testa prima. Sto al mio posto e i parmigiani devono sapere che continuerò a esserci. Quanto alla mia azione politica, mi sento di rappresentare e tutti i giorni pienamente e al meglio i valori del Movimento 5 Stelle. Riguardo all'alleanza con Farage, dice: so che Farage è contrario agli inceneritori, un elemento importante che renderà possibile continuare e combattere una battaglia comune in Europa. Poi c'è rimasto male per questi attacchi, risponde Pizzarotti. Beh, non me l'aspettavo. Pensi, ero in una riunione per organizzare il movimento in provincia dove c'è bisogno di un rilancio, insomma, proprio mentre lavoravo. E poi a Parma l'eredità della precedente amministrazione è pesantissima. A causa di essa la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti sono di casa in comune. Pizzarotti che comunque dice tengo duro. Ci sono le polemiche anche per come è finita ed è finita su tutti i giornali l'intercettazione, o meglio il verbale di Claudio Scajola. È finito su Sky, diffuso da Sky TG24, l'audio in cui Scajola fa l'interrogatorio, dice non ero in affari con nessuno, non sono capace di farli. C'è anche questa frase di Scajola che è stata diffusa per comprare casa. L'ultima volta che ho comprato casa ho fatto un casino. Vabbè, che dire, trovate molto ovviamente sui mondiali, trovate anche una notizia, un'altra sul giornale, per cui tenere le mani ben strette sul volante, verrebbe da dire sulla cloche dell'aereo, ma tanto su questi aerei non vola pare nessuno. Paolo Stefanato racconta, pagina 12, l'aeroporto inutile dell'Aquila. All'Aquila 7 passeggeri al mese. Lo scalo inaugurato il 26 maggio serve solo a far viaggiare il suo amministratore. Qualcuno ricorderà gli scandali di Albenga, come per esempio ancora associato a Scajola, ma il caso dell'aeroporto dell'Aquila Preturo, segnalato ieri dall'edizione abruzzese del quotidiano Il Tempo, un altro episodio di aeroporto fantasma. Nell'ultimo mese 7 passeggeri, o meglio in 3 settimane 7 passeggeri all'aeroporto dell'Aquila. Va bene, a proposito di altri voli, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, ci fa sapere La Stampa in un'intera pagina con Elena, Lisa che ha la prossima missione aerospaziale grazie alla lavazza, l'astronauta Samantha Cristoforetti potrà bere per la prima volta l'espresso nello spazio. Da un'idea della lavazza, la macchina che potrà fare l'espresso nello spazio. Ma io dico, ma va bene, siamo contenti per questa cosa. Anche l'astronauta berrà il caffè nello spazio. 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Matteo Renzi, presidente del Consiglio, due ore fa ha twittato, è rientrato dalla missione orientale, ha scritto a Palazzo Chigi al lavoro sul Consiglio dei Ministri di oggi. Buongiorno. Forse un modo per prendere le distanze dalle polemiche interne al Partito Democratico, dove ieri, dopo il cambio di un senatore, il senatore Mineo, in Commissione Affari Costituzionali, 14 senatori democratici si sono autosospesi dal gruppo per protestare, insomma, contro questa rimozione. Renzi, secondo in retroscena, dice ai suoi Mineo chi? E ancora non ho preso il 40,8% di voti per farmi imbrigliare da questi qui. Ecco, fa bene o è, come qualcuno lo definisce e lui stesso lo fa, un dittatore? 800240024, lo chiedo a voi cari ascoltatori. Renzi aggiunge anche, e ha aggiunto questa frase due giorni fa dalla missione orientale, sui veti e sui voti. Non lasciamo a nessuno il diritto di veto. Conta molto più il voto degli italiani che il veto di qualche politico che vuole bloccare le riforme. Siccome contano più i voti dei veti, vi garantisco che andiamo avanti a testa alta. Senatore Casson, buongiorno. Felice Casson, senatore del PD, benvenuto. Buongiorno a voi. Lei è uno dei 14 autosospesi, ha sentito, contano più i voti dei veti. Renzi è, tra virgolette, un dittatore quando dice così? Ma io credo che sia una deformazione comunicativa voluta del Presidente del Consiglio, nel senso che la questione non sta certamente in questi termini. Qui si tratta di una riforma costituzionale, del Senato in particolare, sulla quale siamo in grandissima parte d'accordo, almeno i 4/5, c'è un punto di differenziazione che riguarda l'elettività del Senato, e cioè vogliamo che siano i cittadini comunque a votare tutti i propri parlamentari. Stiamo uscendo dalle fauci nefaste del Porcellum, proprio perché non era consentito ai cittadini di votare, e noi chiediamo che i cittadini votino anche per il nuovo Senato. Sì. Quindi non c'è nessun voto, ma vogliamo ridare il voto ai cittadini. No, ma questo, diciamo, è la, il motivo per cui c'è... Va detto chiaramente, perché non è scontato, perché nessuno vuole bloccare le riforme. Abbiamo presentato solo alcuni emendamenti sulle migliaia che hanno presentato gli altri, proprio in senso costruttivo. Però il punto politico, evidentemente, di Renzi è: io ho preso il 40, io nel senso il Partito Democratico, questo partito ha preso questo mandato popolare, e chi non la pensa come sulla questione della non elettività del Senato, così non può fermare tutto. Questo è il senso del messaggio di Renzi. Ma appunto per questo dico che è un po' una forzatura, nel senso che le riforme sono molto più ampie, ce le richiedono a livello internazionale europeo, loro pensano giustamente più alle riforme strutturali che intervengono sul mondo del lavoro, dell'imprenditoria, sull'occupazione, e certamente non gliene frega niente del Senato se sia elettivo o non elettivo. Il problema è nostro, è tutto interno, si tratta di rispettare un equilibrio costituzionale che esiste, che può essere modificato, e siamo totalmente d'accordo. Possiamo ridurre parlamentari sia il Senato che la Camera dei Deputati anche in numero superiore a quello di Renzi, però con equilibrio. Ora, se si vuole forzare la mano, assolutamente, se si vuole dare il segno che si è superiori a qualsiasi minimo contrasto, ne prendiamo atto. D'altra parte, ma voi cosa è certamente merito in gran parte di Matteo Renzi, ci mancherebbe altro, però ha avuto durante la campagna elettorale un partito unito, compatto, attorno alle posizioni. Certo, però mi faccia capire, perché oggi il Sole 24 Ore mette un po' i calcoli dei nuovi numeri al Senato tenendo conto di 14 auto sospesi. Cioè, cosa volete fare? Una fronda? Volete uscire dal partito? Nessuno di noi ha fatto calcoli di questo tipo. Per noi si tratta di una riforma costituzionale che è fondamentale, di rispetto dei diritti dei cittadini, e si tratta semplicemente di una valutazione politica. Poi sulle conseguenze, che per il momento nessuno di noi si è posto, vedremo che succederà. D'altra parte, credo che su questa situazione le forze politiche in aula siano fortemente contrarie a questa che è l'impostazione sull'elettività del Senato. Sì. E quindi che ci sia spazio per ragionare, approfondire il punto. Non mi parrebbe la fine del mondo se si arrivasse a una sorta di punto di ricaduta che possa soddisfare l'esigenza del voto ai cittadini e quelle della rappresentanza delle realtà territoriali. Ma su questo dovete convincere Renzi, e pare che al momento Renzi voglia dire si tira dritto, non mi farò certo fermare da questi qui, pare che abbia detto anche questa frase. Mi faccia salutare Ugo Magri, che è notista politico della Stampa. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Allora, Ugo Magri, intanto che succede a questo punto sul dialogo delle riforme? E la domanda più secca è: ma martedì prossimo c'è questo incontro tra Renzi e Berlusconi? Ci stanno lavorando, questo è sicuro. Stanno cercando di vedere se trovano in questi giorni un accordo su tutti gli aspetti su cui Forza Italia aveva espresso riserve forti per quello che riguarda il testo presentato dal ministro Boschi. Però c'è dell'altro, perché stamattina ho segnalato sul mio giornale che Berlusconi mi dicono che abbia messo in mezzo anche le storie della giustizia, cioè a irritare molto l'ex cavaliere. Pare ci siano state appunto queste notizie, che queste intenzioni di Renzi di procedere come per molti è giusto, con modifiche nuove, rafforzando la lotta alla corruzione, reintroducendo il falso in bilancio, modificando i termini della prescrizione. Questo Berlusconi pare non gli piace manco un po', e questo potrebbe essere un ostacolo. Quindi non è detto che martedì si riesca a chiudere. E a questo punto c'è da dire che Berlusconi, vista anche questa autosospensione di 14 del Partito Democratico, potrebbe far pesare il suo essere più decisivo, o no? Mi pare di capire, Ugo. Dunque, secondo secondo quello che io ho capito, Renzi vorrebbe mostrare un partito unito e mostrarsi decisionista per dire a Berlusconi: guarda, se quello delle disunioni del PD è un alibi tuo per dire che non si fa niente, bene, io risolvo il problema, ti faccio vedere che io decido. Quindi a questo punto fai tu altrettanto con quelli che dentro il tuo partito, dentro Forza Italia, che sono tanti, hanno delle obiezioni. Quindi decisionista io, decisionista anche tu. Quindi lui aveva bisogno di questo atto forte. Si è parlato per poter dialogare con me. Si è parlato per 24 ore, però mi pare possibile che Renzi potesse addirittura aprire, tu ne scrivevi ieri sulla stampa, ai voti della Lega, pur di ottenere appunto un appoggio sulle riforme. No, ma i voti della Lega ce li ha già, secondo me, Renzi. Parlando con il senatore Casson, lo sa benissimo come girano le cose in Senato, Calderoli è lì pronto e disponibile, ha ottenuto una serie di modifiche per quanto riguarda il titolo quinto della Costituzione, e la Lega a questo punto che è l'argomento che più interessa, cioè i rapporti fra Stato e Regioni, alla Lega, e quindi lui può considerare di avere anche questi 15 voti in questo momento. Quindi almeno questa è la sensazione. Quindi li ha. La sensazione è questa, senatore Casson, voi non vi non rischiate questo gioco politico a dire far la voce grossa, ma in realtà poi ridate peso alla possibilità che Berlusconi possa essere decisivo, ridate peso, come dice Ugo Magri, anche ai voti della Lega, e alla fine verrete confinati in una sorta di protesta che non avrà molta voce, non farà molta strada. Ma io sui voti della Lega sono in parte d'accordo con Ugo Magri, nel senso che certamente il senatore Calderoli è molto anche abile a trattare, a modificare e a ottenere dei risultati, in questo caso per quanto riguarda l'autonomia dei territori. Però non darei così per scontato che la Lega voterebbe gli emendamenti sulla composizione del Senato, sull'elettività del Senato. Questo è un punto particolare, che poi è il punto di divisione, che è tutto da dimostrare. E detto questo, allargando un po' il fronte come avete fatto, c'è in campo certamente anche la questione giustizia, perché ricordo che in Commissione giustizia nelle passate due settimane stavamo già esaminando il disegno di legge anticorruzione, in particolare stavamo modificando il regime della prescrizione, reintroducendo la concussione nella forma aggravata, così come era prevista prima della legge Severino, stavamo reintroducendo un falso in bilancio e consentendo anche ai magistrati di fare intercettazioni telefoniche, stiamo reintroducendo riciclaggio e autoriciclaggio, e su questo Forza Italia era totalmente e fortemente in disaccordo. E su questo forse si vedrà, questo martedì. Credo che sia il punto più forte. Però io, senatore, vorrei chiederle un parere proprio sul Presidente del Consiglio, nonché segretario del PD, che dice il partito non è un taxi che si prende per essere eletti e fare interviste, e soprattutto quando dice non mi faccio fermare da questi qui. Ecco, lei che politicamente, insomma, è il segretario del suo partito, che cosa le suscita? Guardi, oltre che nella Costituzione, anche nel regolamento del gruppo PD del Senato è scritto che vanno tutelate le diversità di opinioni all'interno del gruppo. In materia costituzionale è scritto addirittura l'articolo 2 che è consentito il voto in dissenso di un senatore rispetto alla decisione dell'assemblea del gruppo. Quindi questi diritti fondamentali vanno certamente tutelati. Poi i contrasti che ci sono sono frutto di proposte diversificate sulle quali si ragiona. In materia costituzionale, per quanto mi riguarda, non ci sono problemi e vincoli di questo tipo. Peraltro lei poi lo chiede a me, io quando c'è stato da votare sulla modifica dell'articolo 138 della Costituzione all'epoca del governo Letta, io in Senato alcuni senatori sono usciti dall'aula per non votare quella schifezza, io mi sono astenuto, che vuol dire contro il Senato, quindi non ho certo problemi di questo tipo. No, è chiaro, quindi si valuta autonomamente le proposte che vengono fatte, perché la Costituzione durerà certamente più di Matteo Renzi. Ah, beh, questo certamente, e di chiunque altro. Ugo Magri, certo. Qualcuno dice, oggi per esempio il Manifesto titola così, l'editto cinese, che ricorda molto il famoso editto bulgaro, e scrive anche il Manifesto è unto dal popolo, che ricorda l'unto dal Signore. Insomma, e molti dicono l'avesse fatto Berlusconi, questo atteggiamento sarebbe stato molto più criticato. È davvero paragonabile la situazione? No, ma io però voglio dare peso alle ragioni vere del dissenso, al di là di di tutte le schermaglie tattiche, ci sono delle divisioni diverse, insomma, anche su un aspetto importante, cioè non è che la differenza riguardi soltanto l'elettività o meno del Senato, riguarda tutto quello che c'è dietro, perché l'idea di un Senato che diciamo venga considerato ostacolo o impiccio o diciamo in ogni caso qualcosa che possa essere tranquillamente abolito fa parte di una visione che è una visione legittima, nobile, che però confligge con quella che per esempio il senatore Casson esprime, ma, però tanti altri al Senato non si vuole abolirlo, ritengono... non si vuole abolirlo, in questo caso lo si vuole sostituire, dai, diciamo le cose come lo si vuole togliere, eliminare come efficacia di intervento, lo si vuole sostanzialmente eliminare, dai, cioè nel momento in cui non è più elettivo diventa appunto, come qualcuno l'ha definito, un dopolavoro di sindaci o di assessori regionali, di consiglieri regionali, cioè non è una cosa di cui francamente, ecco, semmai a quel punto Renzi dovrebbe spiegare cosa serve, ma diciamo è una visione legittima quella di Renzi, forse doverosa, forse necessaria, che però confligge con quella fortissimamente, cioè sono due visioni della Repubblica, è inutile, cioè non è soltanto un piccolo passaggio questo del dissenso dei 14, c'è qualcosa di molto di più, visioni che secondo me riguardano proprio l'impostazione, la concezione del funzionamento della macchina democratica in Italia. E questo staremo a vedere. E lei, Casson, si sente di rappresentare la palude contro la quale combatte Matteo Renzi? Ma vabbè, sono delle immagini comunicative per le quali Matteo Renzi è molto bravo. Devo dire che condivido invece le valutazioni espresse da ultimo da Ugo Magri e le sottoscrivo. Il problema è proprio più complessivo, divisione dello Stato e dell'ordinamento. Per di più con una legge elettorale, se dovesse essere questo italicum, che è pericolosa proprio perché consentirebbe al di là di questi primi anni, 1, 2, 3 anni, ma in prospettiva a chiunque, di controllare il paese e le istituzioni con una maggioranza anche calcolata in realtà del 25-30%. Una democrazia non se lo può permettere, quindi va fatta una valutazione più approfondita sui rischi che si corrono, perché se fosse vera l'intenzione di Renzi di portare avanti questo Senato veramente non ha senso, a questo punto è meglio abolirlo, si toglierebbero gli alibi e facciamo una grande conferenza Stato-Regione-Comuni della e togliamolo cosa. Del tutto. E togliamolo del tutto e risparmiamo di più. Senatore Casson, lei è magistrato ed è di Venezia, insomma la vicenda Orsoni l'ha seguita molto bene. Che cosa le suscita il fatto che il sindaco patteggi 4 mesi, torni a fare il sindaco senza problemi, tra l'altro sparando a zero contro i farisei del PD, e si riferiva anche a Matteo Renzi? Secondo lei può rimanere? Guardi, il primo dato, il fatto che abbia patteggiato, mi conforta come cittadino, perché vuol dire che i magistrati hanno lavorato bene e seriamente, quindi perfino Orsoni, che li criticava, ha riconosciuto di dover patteggiare. In secondo luogo, le critiche che formula nei confronti di quella struttura del Partito Democratico mi trovano consenziente, corrispondono a realtà e vedremo a livello personale le indagini come finiranno. Però le critiche riguardano il sistema di Partito Democratico, che è assolutamente da condannare e da superare, e riguarda non soltanto vecchie strutture ma anche renziani, perché in questa vicenda ci sono sì personaggi della vecchia politica ma anche dei renziani. Cioè fa bene a criticare il partito, quindi secondo... fa benissimo sia nella ottica sua come persona accusata e per difendersi, sia anche per dire guardate che il problema è più ampio. Detto questo, va anche precisato che qui si tratta di un finanziamento illecito di partiti, di persone, che è certamente molto grave, che però non ha, da un punto di vista giudiziario almeno fino a questo momento, collegamenti con l'aspetto più grave degli imbrogli sugli appalti e sulle truffe, sulle turbative. Però insomma lei dice il Partito Democratico deve guardare effettivamente da questa vicenda un po' dentro se stesso, ma può certamente sì. Ma che rimanga sindaco a lei non... No, io anche ieri sera ho avuto occasione di dire, e qui c'è un problema a mio modo di vedere, non dovrebbe rimanere sindaco, però una visione diciamo personale, dico che c'è una questione più profonda, che è quella della necessità di approvare un bilancio che è fortemente in rosso, che va approvato al più presto per mettere in sicurezza i conti della città, quindi al di là dell'interesse in questo momento di Orsoni, del Partito Democratico o di chiunque altro, ha fatto l'interesse della città, che ha bisogno del bilancio, altrimenti rischia di saltare tutto lo stato sociale, tutto quello che le scuole, certo. Quello che e poi secondo lei dovrebbe e poi tutti a casa dovrebbe tutti a casa. Va bene, io intanto vi ringrazio. Ringrazio il senatore Felice Casson del Partito Democratico e Ugo Magri, editorialista e notista della Stampa, per questa analisi politica. Vorrei anche il vostro parere, cari ascoltatori, dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Vi ricordo che anche alle 8.45 avremo ospite il neo sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, del Movimento 5 Stelle, colui che ha conquistato 68 anni dopo 68 anni di ininterrotto controllo del centro-sinistra a Livorno, ha conquistato il capoluogo toscano, e cercheremo di capire con lui cosa intende fare come neo sindaco del Movimento 5 Stelle. 24 mattino. Allora, eccoci nuovamente in diretta alle 8.41 minuti. Con noi c'è il neo sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin, colui che dopo 68 anni di ininterrotto controllo del governo da parte del centro-sinistra ha, posso dire, sindaco, espugnato la città. Le piace questo termine calcistico, se vuole? Siamo in clima di mondiali. Buongiorno, sindaco, intanto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno ai radioascoltatori. Ma espugnato, boh, sì, può anche andare bene come termine, diciamo semplicemente che c'è finalmente un'alternativa credibile al governo della città, e ora sta a noi dimostrare alla cittadinanza e soprattutto coinvolgerla affinché questo cambiamento si attui nell'immediato. Sì. Senta, lei ha giurato, ha detto come primo atto ha dato mandato di eliminare l'auto blu, ma perché il sindaco aveva un'auto blu? Sì, c'era un'auto blu a disposizione del sindaco e io non ho ritenuto opportuno utilizzarla. La mia bianca va più che bene, l'ho sempre utilizzata, è una buona auto e quindi... Sì, poi credo si sia presentato anche in bicicletta il primo giorno al giuramento. Ha parlato, e questo mi ha incuriosito molto, e ha incuriosito molto i giornalisti, di lavorare per arrivare a avere il trasporto pubblico gratuito. Ecco, questa è una questione che dal punto di vista economico per molti è difficilmente sostenibile. Davvero spera di arrivare a questo obiettivo? Guardi, sì, assolutamente, non è una cosa fantasiosa, è già stata realizzata da altre amministrazioni e quindi è per quello che ci siamo sbilanciati in questo senso. Cioè, abbiamo fatto anche già delle valutazioni attorno al bilancio dell'azienda che si occupa di trasporti. La possibilità di realizzare questa cosa c'è, ovviamente bisogna lavorarci, che vuol dire che non è che semplicemente con una decisione che avviene dalla pubblica amministrazione questo cambiamento è immediato e si attua domani. Probabilmente ci sarà un iter di alcune scelte che vanno compiute, attorno alle quali noi vorremmo, io l'ho detto abbastanza chiaramente comunque fin dal primo giorno, volemmo realizzare questa cosa nell'arco di 5 anni, quindi alla fine del mandato ci piacerebbe consegnare la città con un trasporto pubblico gratuito. Questo, ma perché lei dice, credo sono solo il 5-6% dei costi del trasporto che sono finanziati dal biglietto, dal costo del biglietto, però effettivamente sì, è una cifra lievemente più alta, però anche qui poi dopo si innescano le interpretazioni, perché il costo proprio, cioè quello che l'azienda in qualche modo incassa dal biglietto è veramente, diciamo, comunque una cifra che sta sotto il 10%. Poi c'è anche tutto l'apparato che in qualche modo produce il biglietto, i controllori eccetera eccetera, e fa alzare leggermente questa percentuale, ma è chiaro che tutto quello non è parte integrante dell'introito attorno al quale l'azienda fa un ricavo. Diciamo che anche per emettere il biglietto, gestirlo, fare tutti i controlli, si alza un po' questa percentuale, ma tutta quella parte lì è assolutamente inutile dal momento in cui si va verso la gratuità. Questo certamente. E come fa una giunta, un sindaco del Movimento 5 Stelle, che fa curricula, la rete, mi spieghi come la comporrà la giunta? Allora, questo è bello perché ha scatenato veramente una curiosità da parte di no, perché sai, di solito dice la propria squadra, sono collaboratori. Certo, ma mi rendo conto. Allora, io mi sono messo dal punto di vista del mettermi a disposizione di un gruppo di persone, quindi noi abbiamo un gruppo, il Meetup di Livorno, che è un gruppo estremamente efficace nel risolvere le questioni, nell'andare a fondo di problematiche, e in questo caso abbiamo ritenuto opportuno semplicemente non essere presuntuosi nel pensare di avere all'interno del gruppo del Movimento 5 Stelle di Livorno le soluzioni per tutti quanti gli assessori, e quindi ci siamo aperti verso la cittadinanza e abbiamo detto: ok, noi scriviamo quali sono i profili che secondo noi sono idonei per poter far sì che gli assessorati portino avanti un lavoro nell'interesse della pubblica amministrazione e di tutti i cittadini. Guarderemo tutto ciò che in qualche modo ci arriverà attraverso il curriculum, faremo dei colloqui, faremo più di un colloquio. Quindi proprio una selezione, come una selezione di lavoro, come si fanno? Esatto, ma d'altra parte è così, cioè l'assessore non è nient'altro che questo, cioè deve portare avanti un lavoro nell'interesse della cittadinanza. Certo, lei non crede che ci sia anche bisogno però di un affiatamento politico, nel senso in una squadra? Ma io credo di sì, però abbiamo da questo punto di vista anche l'idea che in questi, anche seppur pochi giorni, abbiamo la possibilità comunque di verificare queste cose, verificarle. Quindi siamo fiduciosi. Questo certamente. Senta, un altro sindaco, non so se lei lo conosce, se ha già parlato personalmente, tra sindaci, no? Pizzarotti, sa che ha qualche problema adesso con Grillo, oggi fa un'intervista a Repubblica, dice: io rappresento il Movimento 5 Stelle. Lei non ha un po' paura, insomma, che adesso con questa responsabilità di finire un po' come lui, insomma, un po' nelle critiche, un po' nelle polemiche interne che a volte ci sono? Dico questo, non ho paura semplicemente perché se fosse la paura e il sentimento che mi domina non sarei qui, ovviamente non sarei a cercare di rimettere in marcia una città meravigliosa quale è Livorno e che però è ridotta veramente piuttosto male, e questo è anche il motivo per cui questo cambiamento così storico che crea così tanta attenzione. No, la paura non è il sentimento che io provo. E sono dell'idea che in realtà sia proprio questa cittadinanza la forza di questa città. Sento da parte di tante persone il sostegno. Relativamente agli altri sindaci, no, io ho sentito solamente e mi creda, veramente nel pochissimo tempo a disposizione, perché in questi giorni sto lavorando tante ore perché voglio al più presto mettere in piedi la squadra, quindi sto prendendo in mano tutta la macchina comunale, incontrando i tanti dirigenti chi è riuscito a sentire in questi giorni? Ma i sindaci qui vicini delle città che mi stanno, dei comuni che mi stanno accanto. Però ha detto il presidente della regione, per esempio, non l'ha ancora chiamata. Il presidente non mi ha chiamato. Vabbè, ma lo farà presto. Mi dica in conclusione se lei, come militante del Movimento 5 Stelle, ha votato per questo sondaggio che ha portato l'Alleanza Europea. Le dico la verità, non ho votato perché, mi creda, non ho avuto neanche il tempo per leggere questa cosa. Sono completamente assorbito in questo momento dal sindaco, da fare il sindaco. Sì, no, non solo dal fare il sindaco, dal comprendere e mettere e apportare già delle modifiche alla macchina comunale. Ma lei sta bene questa alleanza, questo risultato che è uscito? Guardi, questa non è sicuramente un'alleanza, questa è una cosa che io ho già spiegato molte volte ai suoi colleghi. Si tratta semplicemente di un'opportunità politica e non è un'alleanza politica, quindi non si va in qualche modo ad abbracciare una si fa il gruppo insieme. I regolamenti parlamentari. La semantica ha un'importanza notevole, certo. Cioè, alleanza è un conto e semplicemente opportunità è un altro. Cioè, l'opportunità in questo caso permette al gruppo degli europarlamentari di avere totale indipendenza. Totale, il che vuol dire che ci può essere contrasto anche su tutte le votazioni, però il gruppo degli europarlamentari 5 Stelle sarebbe comunque presente, questo è quello che conta, cioè questo è quello al quale hanno puntato gli europarlamentari. Ora, nella fattispecie, io non ho avuto il tempo per potermi addentrare nella questione e non ho votato, non ce l'ho troppo soddisfatta materialmente. No, è chiaro, quindi... non se non ha avuto tempo. Ha avuto tempo, diciamo, di preoccuparsi di altre cose che la impegneranno per i prossimi 5 anni. Sì, allora, intanto le facciamo in bocca al lupo, ovviamente, come tutti i sindaci viva che abbiamo sentito. Viva il lupo. Come si dice? Viva il lupo. Viva il lupo. Ah, non sempre viva il lupo. Ah, no, non si dice crepi. Si dice crepi di solito. No. C'è un motivo anche per cui si dice viva il lupo. E per quale sarebbe? Niente di più bello è che augurare a una persona di essere nella bocca della mamma lupo che ti protegge, e quindi dire crepi il lupo è esattamente il contrario di quello che si vuole augurare, quindi è viva il lupo, viva assolutamente il lupo. Viva il lupo. Viva il lupo dal sindaco di Livorno. Grazie Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle, andiamo a sentire il traffico. In questi ultimi 4 minuti vorrei sentire il parere di qualche ascoltatore dopo aver sentito la vicenda PD Venezia e il sindaco di Livorno Nogarin. Sentirei Umberto da Latina, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Milan. Eccoci. Molto rapidamente, un paio di considerazioni. Numero uno, penso di aver fatto bene a non votare il signor Renzi, in quanto si è dimostrato quello che praticamente fa un attimino come fosse il doce della situazione. Sono con Casson, perché non è maniera questa di esprimere la democrazia, soprattutto in un partito democratico che ha questo come nome, Partito Democratico. E devo anche dire un'altra cosa, che in relazione al sindaco di Venezia, se è stata patteggiata la pena, significa che il patteggiamento di per sé è una omissione di colpa. Ha detto Orsoni, caro Umberto, a domanda specifica, perché lei ha patteggiato, io sono innocente, ma era una goccia di sangue che ho dovuto versare. Poco più di un incidente, lo definisco. Questa è una libera interpretazione, che lei mi insegna che patteggiare significa ammettere comunque una colpa. Beh, certo, questo sì. Quindi sinceramente non mi ero assolutamente d'accordo. Un'ultima cosa, e sicuramente a me ha dato molto molto fastidio, il fatto che la presentazione di Renzi come il democratico della situazione, che ci viene a raccontare che il 40% vuole che venga eletto il Senato tramite numeretti o personaggi, o chi sia, ma non direttamente dal popolo, da proprio un indice di quello. Vabbè, che cioè, non ha detto questa frase, però dice io mi faccio forza dei voti e che ho. E allora guardi, un'ultima cosa, allora, a questo punto facesse una bella consultazione con i propri diciamo iscritti e vediamo se la gente vuole che venga. Vabbè, ma insomma, le consultazioni sì, le fa il Movimento 5 Stelle, cioè lui dice c'è stato il voto e più del voto, cosa devo fare? Non è che consultare sempre. Comunque la ringrazio Umberto, vorrei Luca da Firenze, buongiorno Luca. Sì, buongiorno Milan, guarda, io sono completamente in disaccordo con l'ascoltatore che ha chiamato prima. Sì. Voglio usare la sua trasmissione per passare un messaggio a questi politici, tra cui Chiti, che è mio conterraneo, visto che non hanno capito nulla. Io mi considero elettore del PD, anche se alle ultime politiche ho votato 5 Stelle. Ho votato 5 Stelle perché prima di avere altri 5 anni di governo, D'Alema, Bindi e Bersani, avrei preferito tagliarmi le vene. Quindi alle europee ho votato Matteo Renzi, quindi ho votato Matteo Renzi, non ho votato il PD. Vabbè, ma ho capito, perché ha fatto bene secondo lei, quindi ha fatto bene perché questi 14 che si sono autosospesi non hanno ancora capito che sono dei vecchi. Loro, se si vogliono autosospendere, che vadano a casa e vengano altri 14 nuovi. Mineo l'hanno buttato fuori dalla Rai, non lo sopportavano più nemmeno a Rai TG24, e noi ora ce lo ritroviamo noi. Il Senato deve tirare sul bandone, al Senato ci deve andare solo, devono decidere sulle leggi regionali. Va bene, tirare giù il bandone, va bene, lei è stato chiarissimo Luca a dire sono vecchi e Renzi fa bene. Arnaldo da Varese, concludo con lei. Arnaldo, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Benissimo, dica. No, volevo dire, io non sono d'accordo completamente con uno o con due, diciamo che sono una via di mezzo secondo me. Io credo che Renzi non debba far riferimento al 41% dei voti perché è un'elezione europea ogni volta che parla e non è un'elezione politica italiana. Io vivo all'estero, l'impressione che ha dato Renzi all'estero è stato una capacità decisionale e un tono è adeguato per fare politica. Sì. Io credo invece alcune frasi che sono vere che ha detto, cioè quale tipo palude, tipo la palude, non mi faccio fermare da questa palude. E questo l'ha detto tante volte. Voglio dire, sì, ma certi atteggiamenti sono pericolosi, perché poi sembra che abbia la capacità non solo decisionale, ma quell'autorità che toglie quel senso di democrazia. Ma infatti, guardi Arnaldo, il Corriere della Sera spiega chiaramente che già è condannato a sentirsi dare del dittatore e sa già di dover affrontare questa fase. Però, come dice lei, si è contraddistinto per il decisionismo e non vuole cedere il passo su questo. In ogni caso vi ringrazio e ringraziando anche Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione, come sempre il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Vi ricordo anche il nostro profilo Twitter, io sono Alino Milan, mi potete seguire, il profilo della trasmissione 24 mattino. E che dobbiamo dire? Forza Azzurri, stavo dicendo Forza Italia, poi mi accusavano. Ma sì, ma Forza Italia, ma chi se ne frega? Forza Azzurri, Forza Nazionale, a lunedì!